Custodisco un bene, un voler bene da poter trasmettere nel tempo agli altri. La giovinezza. Custodisco tutto quello che mi hanno raccontato le persone che mi stanno attorno. E io custodisco l'amore che mi hanno dato i miei nonni. Delle vecchie edizioni di libri. Custodisco la mia persona, la mia dignità. Custodisco l'amore che mi hanno dato i miei nonni. Inadeguatezza. Io vivo di relazioni, quindi custodisco questo, il piacere della relazione. Il rispetto per chiunque, per me stessa. Degli amici stretti oppure dei familiari o degli amori o delle sensazioni. Quindi custodisco tutte le mie idee, fantasie, eccetera, che poi mi porteranno in futuro a fare qualcosa di bello. Custodisco l'amore che mi hanno dato i miei nonni. I miei desideri. 50 minuti di riparazioni. Buongiorno. Ciao Giulia. Ciao. Voce Leo, voce, ciao. Voce. Ciao, ciao. Vabbè, oggi sei fuori uso. Oggi sono K, ma c'è un sostituto, Giulia. C'è un sostituto, ho trovato un sostituto. Però proprio... prima di dire, mi agita già questa cosa del sostituto. Diciamo dove siamo, come, quando e perché. Beh, dillo tu, dai, sei sempre così Lo dico così con brava. Voce squillante. Sì. Siamo come tutti i venerdì, o quasi, perché settimana scorsa abbiamo fatto pausa, dato che era il 2 giugno, festa della Repubblica, siamo a 50 minuti di riparazioni. Grande, l'ho grande. Detto come piace a te, hai sentito? Bellissimo. 50 minuti di riparazioni. Sei sempre bravissima. Grazie, Leo. Incredibile. Da quando non hai voce sei più gentile. Ma no, è un po' così. È giugno, ma sembra che sia, non so, novembre. Non si sa neanche più cosa sembra che sia. Vabbè. Ho detto in italiano, sì, sì, non sì, si sa più in niente. Vabbè, ti di presento questi il tempi. Mio sostituto, ma presentami forse il tuo un po' lo conosci già. Ma temo di sì, ho molta paura di Guarda, sì. Guarda, gli passo il microfono, visto che abbiamo uno di quei microfoni da conferenza. Ah, bello, no? Lo giro. Cioè, siamo veramente Pronti? Proprio Senti, alla condivisione. Chi abbia... Eccomi. Guarda, grande. Guarda Ciao, casa, signor Duccio, buongiorno. Oggi mi fate lavorare di più. Ma non la paghiamo comunque, perché lo dirò, lei è sempre qua che fa le sue 150 ore. Comunque. Addirittura gli avvocati. Comunque, dica, siamo a 50 minuti 50 di riparazioni. 50 minuti di riparazioni, questo programma che... Che? Vabbè, sì, va in onda. Quando? Il venerdì mattina. Da che ora a che ora? Dalle... 10:30 alle 11:30 minuti dopo che insomma, faccia lei la matematica 11:20 però alla fine fra tutto 11:30 si rimane con noi là. E come mai siamo qua su Radio Città Fujiko tutti i venerdì con questa trasmissione? Ma lei non è preparato, perché, scusi, vabbè, ma perché cosa, si ma deve lavorare, perché... Cioè, ma, no, per il progetto dell'Accademia. Grazie, ecco. Signor Duccio, guardi. Sì, l'Accademia per cui io lavoro. Accademia lavoro. Di che cosa? Esatto, lei lavora per l'Accademia di Belle Arti. Di Belle Arti, questo progetto... Come si chiama il progettone chiama grande? Riparazioni. Riparazioni, progettone che coinvolge tutto. Vado un po' io, signor Duccio, perché vada, lei vada, non ha studiato vada, abbastanza. No, non progettone posso. Che coinvolge il quartiere dell'Accademia e dell'Università in questi mesi fino alla fine di giugno, con laboratori, conferenze, incontri di qui, di là, di su, di giù, trasmissioni radiofoniche come la nostra, di cui siamo alla terza puntata ufficiale. Abbiamo zompato il ponte del 2 giugno, ma siamo qua alla nostra terza e puntata. Basta. E basta. Lei è laconico, signor Duccio. Guardi, io speravo che almeno, dato che Leo parla poco, il sostituto fosse un po' meglio, ma niente. Ricordiamo però, prima di tuffarci nella puntata, che come sempre potete interagire, protestare, commentare, dire cose carine, fare un po' quello che volete scrivendoci alla mail riparazioni@ababo.it. Se invece volete fare delle donazioni per aiutarmi nella mia questione economica, il mio codice è PayPal. Signor Duccio, senta, queste 150 ore sono veramente strane nel suo caso. Quante ne ha fatte fino adesso, piuttosto? Un po' ne ho fatte. Sì, qualcuna. Qualcuno. Ma lei tiene il conto? Qualcuno per lei? Pagherò qualcuno per te. Vabbè, signor Duccio, mi sembrava che vertesse in condizioni di rovina, evidentemente non abbastanza. Comunque, per fortuna, abbiamo qui con noi qualcuno un po' più sul pezzo di lei, le nostre co-conduttrici della puntata di oggi, che sono, ricordiamo, due studentesse, sono di Milano, studentesse del biennio di didattica dell'arte e mediazione culturale del patrimonio artistico, l'ho detto bene? Benissimo. In merito a un credito. Comunque, ricorda, due grandi, bravissime studentesse, come tutti gli altri che hanno lavorato con noi per questo programma, del Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell'Arte, che ringraziamo perché ci sostiene in questa grande impresa. Noi le accogliamo con un grande applauso, adesso incrocio i loro nomi sicuramente. Lo voglio fare. Loro sono Diana Cava e Neva Reali. Grandi, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Belle e brave. Signor Duccio, stia al suo posto, non si allarghi. Vedo che non vi conoscete particolarmente bene, tra l'altro. Allora, benvenute ragazzi, siete contente? Soprattutto la Diana, si vede dallo sguardo. Vabbè, è partita alla grande. No, siamo contenti. Abbiamo lavorato un anno, avete lavorato un anno per questa trasmissione. Noi sì, per un anno ormai. Voi sì, cosa vuoi insinuare? Che noi abbiamo lavorato meno. Poi c'è stato il workshop e poi abbiamo approfondito, però sostanzialmente ci siamo quasi da un anno. Non è poco. Un anno che si è sembrati due comunque. Infatti. Da quando siamo arrivati noi poi. Ma è un mese così che... con il lavoro. Signor Duccio, lei sì che si spacca la schiena. Allora ragazze, a che cosa ci dedichiamo oggi? Qual è il tema a cui siete indecise dopo un anno di lavoro? No, lo dica lei, signorina Diana. È la tematica di oggi, è custodire. Bello. C'è stata diciamo una tematica ostica, almeno per quando abbiamo dovuto porre questo interrogativo alle persone. Beh, però dalle voci con cui abbiamo aperto la puntata, in realtà intima, super molto emotiva, intima. Subito sono già commossa. Ma lei, perché anche voi c'avevate tutta la servitù che vi custodiva le cose, ora sto passando. Sì. Ma anche per me all'inizio non era facile. Non è stato, no, vai, immagino. Imparare a piegare le cose, i vestiti. Ma comunque non hai imparato, da come vestito oggi non hai imparato a custodire. Comunque, sono le solite problematiche. Ragazze, voi che cosa custodite? Io, se penso a custodire, penso ai racconti che mi facevano le mie nonne, quindi le storie della famiglia, il passato, tutte queste cose che mi piace portare con me e che spero un giorno di tramandare a qualcuno, di custodire per qualcun altro. Diana, tu che cosa custodisci? Allora, non voglio scendere nel sentimentale, quindi resterò... E lo farai, quindi sicuramente questa premessa lo farai. No, questa volta eviterò per evitare di far scendere i lacrimoni, non è per me. E io, custodisco i negativi dei miei amatissimi rullini in bianco e nero. Ma siete proprio delle studentesse dell'Accademia di Belle Arti. Leo, tu custodisci qualcosa? La tua voce in questo momento custodisci. A fatica. Lei, signor Duccio, cosa custodisce? I miei segreti. Una risposta meravigliosa. È meglio. Andiamo all'addentro, si dice, della puntata, raccontando però che anche l'Accademia di Belle Arti, che custodisce voi e vi alleva preziosamente, ha dei segreti che custodisce, che magari non tutti conoscono. C'è la camera delle torture. Non sono riuscito, ho chiesto in portiere, ma non... No. La stanno preparando per lei, signor Duccio, la stanno mettendo a posto. Che cos'altro custodisce l'Accademia di Belle Arti? Allora, forse non tutti sanno che anche la nostra accademia possiede un patrimonio. Infatti, entrando nell'aula magna dell'accademia, cioè appena si entra sulla sinistra, per chi non è mai entrato in accademia, oltre a rischiare di rimanere stroncati dalla sua bellezza, perché dobbiamo dirlo, Diana è una ragazza morigerata con i termini, esatto. Stroncati. È impossibile comunque non notare che nello spazio sovrastante ci sono questi spazi che sono definiti corretti. Spiegami cosa sono i corretti, perché quando corretti me l'ha detto prima... o corretti? Qua stiamo entrando un po'... Cosa beve lei la mattina? Il corretto Sambuca. Va giù leggero lei la mattina. Non siamo in fascia protetta. Fascia no, protetta, sì. Questi coretti cosa sono? Che detti molto male, sono quella balconata sopraelevata balcone. Che si nota alzando lo sguardo, cioè detto malissimo. Però ho detto che si capisce in realtà, sì, per cioè, noi profani. Basta alzare lo sguardo, quella cosa che si vede in alto sono i coretti. Grazie, e... vede che studiate mediazione didattica dell'arte, bravo. E, questo spazio è inaccessibile alla maggior parte delle persone, però noi grazie alla gentilezza del professor Alfonso Panzetta, che salutiamo, che noi salutiamo, che comunque ringrazio anche per averci permesso di accedere allo spazio, appunto ci ha permesso di scoprire, di addentrarci un pochettino in quelle che sono, diciamo, la storia di questi coretti. E cosa avete quello... scoperto? Cosa avete scoperto di questi coretti? I coretti non sono quelli Aula Magna, tra l'altro, perché tra origine, tra l'altro, Aula Magna dall'ex chiesa di Sant'Ignazio, di cui mantiene la struttura originaria, ma sono datati al XIX secolo, quindi 1800, cioè, un po' più recente. Che cosa dire? Cioè, loro, diciamo, questi fantomatici coretti custodiscono opere di valore che vanno dal Bernini a Canova, quindi neanche... Ah, neanche robetta neanche, così, robetta, cioè in accademia avete opere di questo livello. Ebbene sì. Ma, e si possono visitare? Beh, anni fa non era per niente possibile se non a pochi addetti ai lavori, ma diciamo che sono stati messi in sicurezza e riallestiti in anni recenti e quindi adesso si possono visitare ovviamente previa... comunicazione, prenotazione, come si esatto. L'accademia. Ma quanto costa? Cosa? Se uno se li volesse tipo prendere da mettere in salotto. Ah, da acquistare, pensavo da visitare. No, signor no vabbè, Duccio. Da visitare, vabbè, quello sarà gratis. No, no, da... Non lo sa lei. No, no, sì. No, non credo si possa fare, purtroppo. Dovrebbe sapere lei che fa le 150 ore in accademia. Eh sì. Come si fa quindi per visitare? Si iscrive all'accademia? Sì, ci si informa con l'accademia e poi in base a quando fanno le visite si viene portati appunto in questo spazio sopraelevato a visitare questo piccolo scrigno. Bellissimo, ma veramente una bella informazione da sapere, perché, anche perché chi non conosce l'Accademia di Belle Arti può come l'Accademia sta uscendo con riparazioni nel quartiere, voi potete, questa l'ho detta bella Leo, voi ascoltatori potete venirci a trovare ed esplorare questo spazio meraviglioso. Vuoi darci la tua chiusa, Diana? Perché so che avevi preparato una chiusa particolarmente toccante su questo. Ah sì, davvero? Sì, non te la ricorda? Vabbè, chi c'è? Detto in maniera un po' romantica, perché qui ci piace essere romantici, che sia che si osservi da sotto che da sopra, è possibile comunque percepire l'idea di questo scrigno, cioè di uno scrigno però denso, che racchiude la sua bellezza non solo per la quantità, ma soprattutto per la varietà delle opere che in fondo, testimonia la storia della nostra Accademia. Bellissimo. Grande Diana, grande. Un applauso a Diana Cava. Ma andiamo. C'ho la pelle d'oca. Signor Duccio, guarda, mi sta diventando un cuore di panna lei. Ma andiamo ora a scoprire chi è il nostro primo ospite di questa puntata, perché se ci avete ascoltato nelle puntate precedenti sapete che noi abbiamo scovato, noi, voi veramente, avete scovato in questi mesi delle vere e proprie personalità del nostro quartiere per andare a indagare le tematiche delle nostre puntate. Oggi partiamo, come si suol dire, col erbotto, perché abbiamo proprio un personaggione di questo triangolo delle Bermude, quartiere, accademia, università. Lui si chiama Andrea Renzini, ce lo presenti, Diana? Assolutamente. Allora, classe 1963, nasce a Venezia, Andrea Renzini, ma è un artista naturalizzato bolognese di cui rivendico orgogliosamente la cittadinanza. Dopo gli studi all'Accademia di Belle Arti, esordisce negli anni 80 grazie alla collaborazione con la rivista Frigidaire. Ah, Frigidaire! Continua come pittore e fumettista e lo vediamo oggi giocare con una commistione di abiti diversi tra di loro, tra cui la musica, l'installazione e la moda. Personaggio eclettico. Esatto. E negli ultimi anni, attraverso la pratica dell'appropriazione indebita di elementi e anche di simbologie, soprattutto dei grandi marchi, ha realizzato dei lavori delle serie Pantone e di altri che riprendono il famoso logo, per esempio, di Fazzoletti Tempo. Quindi se uno va a casa di Andrea Renzini, comunque si trova tutto questo qui. Perché voi siete andati a casa di Andrea Renzini? Ah, sì. Lo conoscete bene. Ebbè. Sì, sì. E se vi foste chiesti, o forse no, perché ne stiamo parlando, è per il suo ruolo attivo nel quartiere, e più precisamente per un progetto di cui ideatore in via Mascherella, il Minime Gallery, e abbiamo deciso di invitarlo e intervistarlo per permettere anche a voi comunque di conoscere questa piccola ma al contempo grande realtà. Ma guarda ste chicche che ci dà la Diana sempre! Mamma mia! Senti, Deva, invece, visto che siamo riusciti a intervistarlo, insomma, ci ha dedicato un bel po' di tempo, ci ha regalato, che domande gli avete fatto? Beh, gli abbiamo chiesto di raccontarci cos'è questo spazio e quali sono le cose particolari che appunto si trovano e come anche si viene a conoscenza, perché è un po' nascosto, poi lo sentirete. Mini. E, esatto. Lui ha detto... Che ha detto? Cioè, signor Duccio. E dopo te lo facciamo sentire, no? Adesso già l'intervista, un attimo, impaziente. E poi siamo andati un po' sul personale, gli abbiamo chiesto qual è il suo ruolo e qual è il valore per lui di questo suo progetto, di questo luogo. E allora sentiamo se il signor Duccio è d'accordo. Sì, ma è curioso. E allora, se è curioso, sentiamo cosa ci ha risposto. È l'antispazio, nel senso che quando uno pensa a uno spazio dice bello spazio, ecco, quello è un intercapedine, mettiamola un po' così, lo spazio interstiziale, nel senso che è un po' come lo spazio tra due polmoni, ecco, nel senso che è talmente piccolo che è quasi invisibile. Essendo un non spazio, perché è un contatore dell'acqua, e non è uno spazio fisico, non ci si può entrare fisicamente, e non è neanche uno spazio visibile perché è mimetizzato, nel senso che per la strada uno non ci fa neanche caso che esista, perché è come creare una galleria in un radiatore di un termosifone, cioè è un po' mimetizzato. Esisteva già lì perché appunto è un contatore. Da quando è aperto il megastore di DJ Balli, con la sua etichetta Sonic Belligeranza, che ironicamente ha chiamato questo spazio talmente piccolo di 3 metri per 2, il megastore, ed è stato per me un momento molto, molto interessante. Ti ha creato un gruppo di artisti, di musicisti, di skaters, di ragazzi, legati principalmente al mondo della musica alternativa. E di fianco, poi dopo un po' che si parlava sempre del megastore, ho detto io adesso facciamo anche la costola artistica di questo mega, facciamo il mini mega, uno spazio della durata di un'esposizione della durata di un paio d'ore, di una serata in estemporanea, senza grandi pubblicità, che gli artisti si confrontavano con uno spazio quasi autarchico, uno spazio di quartiere, mettiamola così, neanche di quartiere, di strada. È uno spazio dedicato agli artisti di strada, non che vivono in strada o che, ma che vivevano in Mascherella. Poi la cosa si è un po' allargata anche ad altri agenti di Milano, di Roma, ma su invito. Ci sono stati linguaggi molto, molto diversi, da escrescenze di materiali plastico, che tipo colate che uscivano, oppure panna montata che... come che fosse posto la perdita di panna montata, una specie di radiatore, di filtro per gli impianti di riscaldamento, dove dentro c'era un registratore che emetteva una tosse. Allora si viene a conoscenza uno quando c'è, perché se quando non c'è la mostra è praticamente, a parte la scritta mini mega sulla porticina, che un po' ricorda la porticina quella di Via Piella, che quando tutti guardano un fiume, quando c'è l'acqua, poi c'è l'acqua, quando non c'è l'acqua, non c'è l'acqua, ecco. È uguale, cioè, quando c'è la mostra la vedi perché è illuminato, e quando non c'è niente, come ha in questi giorni qua, uno apre e c'è un contatore della luce, dell'acqua, scusate. E abbiamo detto, beh, trasferiamoci anche noi, come fanno tutte le gallerie che si rispettano, apriamo anche noi la nuova sede. E infatti di fronte al nuovo spazio c'è questo piccolo contatore dell'acqua, però un altro di un super contatore di tutto il condominio che è bello grosso, allora lui facciamo il mega modo, capito? Cioè il mini mega sopra piccolino e il mega modo per le sculture. L'idea mi venne in mente in virtù della creazione del megastore, perché probabilmente senza il suo appoggio, senza la sua nascita, non mi sarebbe venuto. Un po' è venuto per gioco, perché tu fai il megastore, ma allora io qui faccio il mini mega. Sicuramente una specie di ombelico, un mio ombelico, se non dire altro. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. those places we've grown, all of us are done for. Questa era Don't Panic dei Coldplay, una scelta ovviamente del grande Daniele Di Feo, per cui trovo la voce solo per ringraziarlo. Solo grazie per Daniele Di Feo, adesso, torna al microfono. Adesso ripasso il microfono al signor Duccio. Un bel sostituto che ci hai dato, grazie, oggi Leo, grazie, complimenti. Grazie. Salutiamo Daniele Di Feo. Ciao, con Daniele. La bellissima scelta di Don't Panic dei Coldplay. A proposito di Don't Panic, andiamo avanti con la nostra puntata. Ora è arrivato un angolino prezioso, una chicca della puntata di oggi, perché abbiamo quello che abbiamo voluto chiamare il gabinetto delle curiosità. Cioè, dato che abbiamo una puntata dedicata al tema del custodire, durante questi mesi avete un po' scorazzato per il quartiere alla ricerca, nel tentativo di scovare dei posticini nascosti che custodiscono cose importanti che comunque vi hanno colpito. Ce n'avete una curiosità a testa? Neva! Allora, io ho trovato la Fondazione Collegio Artistico Venturoli, che si trova in via 100-300 numero 4, ed è un'istituzione che è nata nel 1993 per volere dell'architetto Angelo Venturoli. Questa istituzione sostiene giovani artisti bolognesi offrendo loro spazi che si vincono attraverso un bando. E questa istituzione conserva collezioni molto diverse tra loro, una di gessi, una pinacoteca, incisioni, animali impagliati e pietre ornamentali. Ma particolare, animali impagliati e studenti. Sì, un po' di Duccio, tutto. Gli animali impagliati un po' si è incuriosito. Diana, che cosa hai trovato tu? Io ho trovato Palazzo Bentivoglio, che beh, bello grande, bello si vede grande, bene. Ma noi nello specifico andiamo con Gai Alberto Vacchi, che acquistano nel 99 un grande appartamento al piano terra che era in stato di abbandono e che decidono di deputarlo a, diciamo, spazio espositivo sostanzialmente. Infatti si trova una collezione permanente, si possono allestire mostre temporanee, una biblioteca, ma la cosa veramente curiosa è il fatto che durante i restauri è stato trovato questo passaggio segreto che veniva usato come via di fuga da una delle più importanti famiglie in vista della città. La famiglia Bentivoglio. Un segreto nel segreto, bellissimo, un passaggio nascosto. Signor Duccio, a proposito di cose che vorrei nascondere, lei che cosa ha trovato? Ma a me mi hanno detto di dire di questa Nebam. Ma come mi hanno detto di dire? Sì, io non ho trovato nulla. Faccia finta almeno. Io ero andato un po', ma non ho trovato. Vabbè, comunque mi hanno detto Nebam Gallery, via De Castagnoli 5B. Cioè. Allora, in pratica dal 2022 in questo spazio che ha due cose diverse, che c'ha la Nebam Gallery e la Nebam Design Store, che in pratica sono il continuo di questo African Design fondato nel 98 da chi? Lawrence Johnne, non so come vabbè, si pronuncia, Lawrence e insomma questa designer franco senegalese ma bolognese di adozione, che insieme alla sorella ha aperto questo spazio, la sorella Clarisse. E loro praticamente selezionano oggetti di design, di raffinata fattura, testimoni di una cultura ricca di tradizioni, gesti, simbologie e opere d'arte derivanti dalla cultura africana tradizionale, ma anche contemporanea, con l'obiettivo di far conoscere oggetti caratteristici. Vabbè, signor Duccio, grazie. Salutiamo Clarisse e Laurence. Spazio meraviglioso, spiegato un po' così dal signor Duccio, però almeno così l'abbiamo ricordato. Noi facciamo un attimo di pausa perché adesso c'è la pubblicità. Ed eccoci tornati a 50 minuti di riparazioni. E di pimpantezza, oserei dire, con questa voce. È pur sempre venerdì mattina, no? È vero, è vero. È pur sempre venerdì mattina. Beh, dove siamo, Giulia? Beh, siamo nel mezzo siamo del cammino di nostra vita, secondo direi. Secondo me è molto, molto importante della puntata, infatti sono intervenuto lo direttamente. Lo so che ci tieni a dirlo. Perché abbiamo avuto l'onore di un ospite gigante. Io ero presente, ho registrato l'intervista e... Devo ammettere che poche volte ho registrato interviste di questo genere. Sei però emozionato? Sì, sono un po' emozionato, ma lascio la parola a Neva che presenterà l'intervistata. L'ospite in questione. Vai Neva. Ebbene, la nostra ospite è stata Maria Luisa Pacelli, che è una storica dell'arte e da novembre 2020 è la direttrice della Pinacoteca Nazionale di Bologna. Nel periodo che va dal 2010 al 2019 è stata la direttrice delle Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea del Comune di Ferrara. Nei 10 anni precedenti è stata anche conservatrice capo di tali musei e invece nel periodo dal 2011 al 2019 è stata anche responsabile scientifica e organizzativa delle mostre di Fondazione Ferrara Arte presso il Palazzo dei Diamanti. Oggi l'abbiamo invitata per parlarci del museo statale che dirige e anche della sua esperienza in questo luogo di fondamentale importanza per la storia di Bologna. Beh, quindi direi un'ospitona, direttrice della Pinacoteca Nazionale, qui accanto a noi in Accademia. Sentiamo un po' che domande le hai fatto, perché è un personaggio questo. Beh, per partire l'abbiamo chiesto come nasce questo spazio. Beh, la Pinacoteca Nazionale di Bologna nasce come quadreria della Scuola di Pittura dell'Accademia di Belle Arti, quindi originariamente questi due istituti erano una cosa sola. Con il tempo coloro che erano responsabili in accademia di questo nucleo collezionistico che poi andrà a formare il museo si rendono conto che hanno l'opportunità di creare la più grande collezione pubblica di arte bolognese che esista al mondo e quindi precocemente anche le acquisizioni e gli acquisti vengono orientati in questo senso. È da lì che nasce una collezione molto forte di arte bolognese, molto coerente, questa è una delle forze proprio di questa Pinacoteca. Si stacca dall'Accademia di Belle Arti negli anni 80 dell'Ottocento, diventa un museo autonomo con un suo biglietto. E quindi cosa trova chi entra? Chi entra in Pinacoteca trova una appunto rappresentanza dell'arte bolognese dal 300 al 700. Le collezioni del museo coprono un arco cronologico più ampio perché arrivano fino all'Ottocento, ma gli spazi di questo museo, che è appunto il convento di Sant'Ignazio adiacente all'Accademia, non consentono di esporre anche l'Ottocento. Anche su questo c'è da riflettere chiaramente. Però ecco, è un'esperienza davvero peculiare quella che si può fare in questo museo, perché a differenza di altri la collezione è molto coerente e quindi chi vuole conoscere anche la storia di questa città, oltre alla storia dell'arte, può trovare degli spunti interessantissimi, perché in ogni caso la coerenza di questa collezione, da Vitale, da Bologna, a tutto l'arte rinascimentale, prima con i Ferraresi, Francesco del Cossa, Ercole De Roberti, poi Lorenzo Costa, poi l'avvento di Raffaello, eccetera, eccetera, fino al manierismo con Vasari, Prospero Fontana, la William Fontana, e poi tutta la stagione importantissima dei Carracci, di Guido Reni, Guercino, ma anche il Settecento ha degli artisti di grandissima levatura, basti pensare a Crespi, per esempio. E diciamo che andando, passeggiando per il museo, se si ha un occhio attento, interessato, si possono anche intravedere quali sono le caratteristiche di questa tradizione. Caratteristiche che affondano le radici nella storia anche del territorio, e questo è molto interessante. Come viene quindi scelto ciò che viene esposto? Ecco, non sono scelte facili, sono scelte che, diciamo, dal punto di vista del lavoro che si fa in un museo, presuppongono delle responsabilità importanti, no? Anche perché, come sappiamo, il gusto, per così dire, o l'importanza di alcuni artisti rispetto ad altri si lega molto al periodo storico in cui uno vive, non sono mai valori assoluti. Poi è chiaro che ci sono degli artisti il cui valore oggi non è discutibile, come ad esempio, non so, un Raffaello. Quindi ci sono delle opere come quella che sono indiscutibili all'interno del museo. Dopodiché su altre invece è necessario compiere delle scelte. Queste scelte non si basano esclusivamente sul valore del pittore o dell'opera, ma anche sull'esperienza della visita che il museo vuole proporre. E che ruolo ha quindi o ha avuto in questo luogo? Il ruolo che ho avuto è stato un po' quello di, ora non voglio esagerare né diciamo darmi un ruolo eccessivo, ma comunque un po' di rifondazione di questo sito, perché la mia nomina ha coinciso con il riconoscimento da parte del Ministero della Cultura dell'autonomia di questo museo. Il museo è come se fosse un organismo vivente. Tutte le sue parti devono funzionare, altrimenti la macchina si inceppa in qualche modo. E quindi tutto questo per dire che è un momento di rifondazione e di ripartenza. Quello che io sto cercando di fare è di lavorare per strutturare l'istituto, ma allo stesso tempo farlo vivere, cioè non attendere che questo lavoro sui fondamenti, sui fondamentali sia terminato per cercare di far vivere il museo, perché insomma era ora di restituire, di lavorare per restituire pienamente il museo anche con un ruolo attivo nei confronti della sua comunità, no? Quindi diciamo che c'è questo doppio binario di cercare di appunto ricostruire le fondamenta anche in termini amministrativi, di gestione, organizzativi del museo, ma allo stesso tempo proporre delle attività che facciano sentire la presenza di questo istituto. E ultima domanda, che valore ha per lei questo luogo? Beh, per me, proprio se la vogliamo vedere da un punto di vista molto personale, ovvero al di là del fatto che ricopro un certo ruolo e quindi no, devo fare tutta una serie di attività e mi devo porre tutta una serie di problemi, diciamo che per me è innanzitutto una grande sfida. Quindi la grande sfida è proprio riuscire ad incidere e riuscire soprattutto a mettere in campo una visione, che sia una visione che riesca a, come dire, a rispondere alle istanze del presente, ma che riesca anche a proiettarsi un po' nel futuro, a gettare le basi per uno sviluppo futuro che non è detto di cui io sarò protagonista, insomma, no? Però è importante avviare l'istituto con un progetto che abbia una prospettiva. Bellissima intervista, ringraziamo davvero Maria Luisa Pacelli per la sua generosità e anche voi ragazze, brave? Grazie. Bellissima intervista, davvero. Veramente grazie signor Duccio. Adesso a proposito di bravi davvero, è un po' il suo momento, nel senso che dovendo fare almeno qualcuna di queste 150 ore, anche lei so che si è dato da fare. Ha lavorato rimanendo in Pinacoteca, per restare in tema con Maria Luisa Pacelli. Senta un po', e andando ad esplorare la Pinacoteca e tutte le opere che si è fermato. Sì, subito all'ingresso, guardi. Sì, perché la stancava troppo avanti. No, sono entrato lì di quella porta magica, no? Che e arrivo e subito pam. E che cosa l'ha colpita di ciò che hai custodito lì? Sono arrivato e ho detto qua, questo è un capolavoro. Questo, ma di cosa sta parlando? Sotto c'è scritto San Giorgio e il Drago. San Giorgio e il Drago, bella, un altro bella, pezzo da 90. Guardi, veramente, perché in pratica c'è sto giovanotto con l'armatura. C'è San Giorgio. Sì, vabbè, questo ragazzo che sta sopra e sovrasta con il suo cavallo questa bestiaccia schifosa, sto drago terribile, poi c'è una ragazza lì che lo guarda, che sogna. In chi, pratica, chi sarebbe? Vabbè, una ragazza. Ho scoperto che questa era la più grande opera di Vitale da Bologna e subito ho detto, appunto, no? Vedendo, ho detto, vabbè, qua proprio c'è l'essenza della civiltà moderna. Addirittura? Sì, perché che interpretazione. Se lei insegue questa... Allora, la seguo. Sotto... No, sotto c'è la maledetta borghesia arricchita e arrogante con le sue scaglie di finta nobiltà e i suoi artigli del mercato libero, e sopra è schiacciata dal sangue blu che cavalca il destriero del feudalesimo e impugna la lancia della tradizione. Cioè, lei qua... Mentre il dolce popolino sorride in un angolo, no? Con le sembianze di una donzella al palio. Che lei è un nostalgico. Che è felice di vedere il passato che trionfa ancora. Qui devo dire che quasi mi sono commosso. Com'è? Lei si è commosso di fronte a sì, questa resurrezione? Sì, perché un po' alla fine mi sono sentito a casa, no? Sai, quando vede queste cose è normale che uno si sente un a po' casa. Un emozionarsi, sì, sì. Non pensavo perché comunque qua la situazione non è proprio come una celebrità. Cioè qua a Bologna, qua in questo quartiere, non si sente bene lei. Con tutti questi diritti, con le libertà. Vabbè, sarebbe anche ora. La gente che ha più di due vestiti, un pantanaio. Mi va, direbbe un pantanaio. La saggezza. E invece, insomma, davanti a questo possente giovane vestito di rosso, mi sono detto proprio, forza Duccio. Cerca nel tuo sangue, impugna quell'educazione classica che ti trovi e vedrai che sconfiggerai la bestia della contemporaneità. E come diceva un vecchio saggio dalle mie parti, ritorneremo prima o dopo. Attenzione a questi moniti un po' pericolosi del signor Duccio, Lei proprio si fa sempre per scherzare, lei dal lucchese al francese, come mi mastica tutto. Va bene, è stato un bel momento di signor Duccio featuring Philippe Daverio, questa analisi dell'opera, bella, nostalgica. Sì, un amico mio, proprio. Immaginavo, c'ha tutti amici strani. A proposito di amici nostri, voliamo subito al prossimo pezzo che ha scelto come sempre magistralmente l'amico nostro Daniele Di Feo, che questa volta ci regala un'altra chicca, Foto di gruppo. Bassi maestro. Come pellico mi metto a scrivere memorie su memorie per reprimere la voglia insoddisfabile di pormi dubbi irrisolvibili, circondato da un deserto di inquietudini, le conoscenze non le riconosco, su alcuni cresce il muschio, di qualcuno rimane solo il teschio, certi amici non li vedo più, non li sento nemmeno, pensando a loro mi ritrovo in mano ricordi talmente sparsi che non possono più collegarsi, presto o tardi andranno persi nella banalità di chiacchiere, dentro la complicità di foto e lettere, mai promettere se non sei in grado di mantenere, guarda caso, più scrivo più temo di non averlo del tutto compreso, timoroso di voltarmi per guardarvi e riconoscervi, vivo nel presente, tanto va così, ti accorgi che la vita è una foto di gruppo, molti posano, troppi vivono a contatto con una realtà che non è di casa, si affrettano a prendere decisioni nell'attesa di qualcosa con il rischio che non accada, di qualcuno con il rischio che non ti veda, del motivo che ci accomuna dentro la cornice, troppo poco stanchi per dormire, dentro la cornice si emerge dal profondo fino in superficie per riscoprire un po' com'è che va, cosa si dice, niente di nuovo come al solito, chi vive per illudersi, chi la fa finita, chi resta in bilico tra mille situazioni che lo compromettono, tra mille più inquilini che lo sfrattano, chi rimane con i piedi a terra, chi resta bocca aperta per lo stupore, per il malumore, pochi volti rassicurano di questi tempi, vivo di gratitudine per i momenti che passano di tanto in tanto come un classico che mi rilego con piacere mentre è già pregusto il prossimo, e i tentativi di stare da solo sono falliti, salvato dai soliti vecchi amici, si può cenare qui stasera, scatto primi piani eterni per non dimenticarci, perché va così. Ti accorgi che la vita è una foto di gruppo, molti posano, troppi restano a contatto con una realtà che non è di casa, si affrettano a prendere decisioni nell'attesa di qualcosa, con il rischio che non accada, di qualcuno, con il rischio che non ti veda, del motivo che ci accomuna dentro la cornice, ancora troppo stanchi per dormire. Va così, ti accorgi che lo scatto è mosso fuori fuoco, ma è troppo tardi per fare uno spreco dei momenti che affronti, degli imprevisti che ti tocca vivere, pagando in contanti per poter scrivere di qualcosa, con il rischio che non accada, di qualcuno, con il rischio che non ti veda, del motivo che ci accomuna dentro la cornice, ancora troppo sveglio per dormire. E ora è arrivato un momento molto speciale della nostra puntata Custodire, perché abbiamo qua in studio con noi non uno ma ben due ospiti che di questo argomento ci possono parlare approfonditamente, perché loro per professione custodiscono, curano degli spazi molto importanti di questa zona della città. Li presentiamo, anzi li accogliamo con un grande applauso. Loro sono il dottor Umberto Mossetti, curatore dell'Orto Botanico ed Erbario di Bologna. Ciao Umberto, buongiorno, benvenuto. E invece abbiamo la dottoressa Yolanda Granatieri della cooperativa Open Group, che si occupa da anni dei servizi di biglietteria, guardiania e didattica di diverse sedi museali SMA, ovvero il Sistema Museale dell'Ateneo. Io lo sapevo, e in particolare si occupa del museo di Palazzo Poggi. Allora, Neva e Diana, ci volete dare... Non ti ho salutato. Ciao, ciao, grazie, grazie. Benvenuta, benvenuta. Buongiorno. Neva e Diana, ci volete dare un po' una panoramica di queste due importanti istituzioni di cui oggi abbiamo due meravigliosi rappresentanti? Certo, molto volentieri. L'Orto Botanico è uno dei più antichi d'Italia e l'erbario dell'Università di Bologna conserva campioni di piante essiccate raccolte dal XVI secolo in avanti da personaggi importanti come Ulisse Aldrovandi, Antonio Bertoloni, Giuseppe Monti e Ferdinando Bassi. Ah, però abbiamo insomma un bel patrimonio. E invece per quanto riguarda Palazzo Poggi? Per quanto riguarda Palazzo Poggi invece, fu costruito nel corso del XVI secolo su progetto di Pellegrino Tibaldi, sorge in pinaria universitaria e fu anche dal 1803 sede dell'università. All'interno del palazzo è inoltre esposta la preziosa collezione dell'Istituto delle Scienze, che fu fondata nel 1711 da Luigi Ferdinando Marsili. Grazie, grazie Diana, ma intanto benvenuta, benvenuto, grazie, grazie, grazie davvero della disponibilità per essere qua con noi. Siete pronti per una raffica di domande che hanno preparato le nostre, ma dai, le ci nostre studentesse? Proviamo, ah, sì, proviamo. Tanto, è il vostro mestiere, chi meglio di voi sa cosa significa custodire? Vai! Allora, iniziamo con la prima domanda. Che lavoro fate e qual è il vostro ruolo all'interno dell'istituzione? Io faccio, anche se sembra strano dirlo, faccio il botanico e in particolare mi occupo di conservare e curare l'orto botanico e l'erbario dell'università. Io invece, come avevi già introdotto, lavoro per la cooperativa Open Group e mi occupo di quello che è la guardiania, biglietteria, in particolare del museo di Palazzo Poggi e della didattica sia per le scuole sia come utenza libera. Ok, e quindi cosa custodite? Oh, delle cose molto diverse. L'orto botanico e l'erbario sono due musei anomali. L'orto botanico perché i pezzi che esponiamo sono organismi viventi, quindi con delle esigenze molto diverse da quelle degli altri musei in assoluto. L'erbario è anomalo perché non è aperto al pubblico, è da questo punto di vista una specie di archivio, cioè una serie di informazioni conservate nel sotto forma di campioni d'erbario. Io invece non custodisco esseri viventi, ma per me è come se lo fossero, perché comunque alla fine bisogna stare attenti al loro stato di conservazione, soprattutto per quanto riguarda le cere, insomma tutta questa parte. Diciamo che adesso entro un po' più nel personale e volevo chiedervi cosa significa per voi custodire. Come orto botanico, custodire vuol dire far crescere, far nascere, far crescere e alla fin fine vuol dire anche veder morire le nostre piante, seguirle nel loro ciclo vitale, fare in modo che finché vivono, perché come organismi viventi hanno una nascita, una crescita e una morte inevitabile, finché crescono stiano bene. Nel caso dell'erbario la questione è molto diversa. L'erbario è una serie di campioni che ci danno delle informazioni sulla diversità vegetale del nostro pianeta. E questi dati, nel caso del nostro erbario, risalgono al 500. E dal 500 in poi c'è una documentazione continua. È questa che va conservata e preservata, perché sono dei dati che sono tuttora importanti. Per me custodire va oltre all'oggetto, l'opera d'arte, ma lo espando anche al visitatore, perché per me custodire, quindi accompagnarlo nel percorso in modo tale che esca felice dal percorso che ha fatto al Museo di Palazzo Poggi. L'ultima domanda è: qual è la cosa più bella del vostro lavoro? Per l'orto botanico è vivere immersi nel verde. Ti fanno vedere le stagioni, ti fanno vedere quando qualcosa non va bene, quando qualcosa va bene, con dei momenti anche molto emozionanti. Perché qualche anno fa noi abbiamo piantato all'aperto un agave, che non è una pianta che qui da noi sta molto bene all'aperto, non l'agave americano, un'altra specie, ma questo è secondario. L'abbiamo guardata con attenzione, l'abbiamo riparata durante l'inverno, siamo stati attenti e dopo un po' di anni ci sta facendo il regalo più bello in assoluto che un botanico può avere, sta per fiorire. È l'ultimo atto della sua vita, perché fiorisce e muore, ma prepara la nuova generazione. Ha anche già buttato una serie di getti laterali che non si sa mai che la fioritura va. Però questo per noi è stata una soddisfazione immensa, immensa. La cosa più bella è come un po' quello che ho anticipato prima, ovvero vedere la gente che esce contenta e che ci ringrazia, questo anche perché noi lavoriamo costantemente a contatto col pubblico e ha i pregi e i difetti, e quando riesci comunque ad accontentare un pubblico molto vasto, quello sicuramente è una cosa che a me personalmente piace molto, come mi rende felice, ecco. Ma mi sembra che abbiamo intercettato due ospiti veramente brave ragazze. Abbiamo intercettato due ospiti meravigliosi. Noi vi ringraziamo. Grazie a voi. Grazie davvero. Grazie a voi per essere stati con noi, per la vostra generosità. Lea, vuoi dire qualcosa? No, perché ti abbiamo tolto il microfono per far parlare gli ospiti. Grazie per essere stati con noi. E mentre salutiamo i nostri ospiti, ringraziandoli ancora, vi ricordiamo, per chi è all'ascolto, che si può sempre andare a visitare l'orto botanico meraviglioso a prezzo zero. Gratis, signor Duccio, questo le interessa. Grazie. Palazzo Poggi non è da meno, perché studenti e studentesse dell'Accademia possono sempre entrare gratis, le altre persone comunque se la possono cavare, è un prezzo affrontabile. E ora voliamo verso la fine della nostra puntata di 50 minuti di riparazioni con la consueta rubrica Non solo birrette, in cui ricordiamo gli appuntamenti clou della settimana che vi aspetta qua nel quartiere dell'Accademia. Vai ragazze! Prima della settimana ricordiamo che anche la Pinacoteca Nazionale e il Museo Giovanni Cappellini sono gratuiti per gli studenti dell'Accademia e a prezzo irrisorio per tutti gli altri studenti, mentre completamente gratuiti sono, oltre all'Orto Botanico, il Museo Luigi Bombicci e la collezione Luigi Cattaneo. Brava Neva, brava, hai fatto bene a ricordarlo. E invece gli appuntamenti della settimana, Diana, quali sono? Ultime due serate, 10-11 giugno a Palazzo Bentivoglio dalle 8:30 alle 10:30, presenta con l'apertura serale straordinaria l'ultima acquisizione della collezione permanente, Lifetime del 2019, di Ugo Rondinone. Il 15 giugno, dalle ore 16 alle ore 20, ritessera d'arte in piazzetta Raviola a cura del Dipartimento di Fashion Design. Poi invece, per quell'evento di quel mio amico massone, chissà, deve sapere, mi raccomando, solito orario, portate la toga. Grazie, signor Duccio, sempre prezioso, ogni suo consiglio e reminder. Bene, ragazze, grazie di essere state con noi, avete fatto un meraviglioso lavoro, custodiremo questa puntata con grande amore e speriamo che... Posso dire sì. Che grazie Giulia, che dopo 33 anni è sempre bene ricordare, è sempre Forza Napoli. Forza Napoli sempre. No, vabbè. Ci stava, ci stava. Diana Cava voleva dire questa cosa dall'inizio della puntata e ci sta. E vabbè, ecco. E vabbè. Va bene, quindi ringraziamo tutti, signor Duccio, Neva Reali, Diana Cava, o vi sbaglio sempre, Leo Merati, oggi l'abbiamo sentito poco ma è sempre ovunque, tutto intorno a noi. Noi vi diamo appuntamento a venerdì prossimo, sempre su Radio Città Fujiko, sempre con 50 minuti di riparazione, sempre dalle 10.30 alle 11.30. E niente, ciao, grazie per essere stati con noi. Ciao, buona giornata. Ciao.